La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. L'anello stregato. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. C'era una volta, nell'isola di Hyknos, il regno di Pabilonka. Come in quasi tutti i regni, esso aveva un re e una regina. Si chiamavano Eugenio e Filippa. I due sovrani avevano una sola e bellissima figlia, il cui nome era Lucilla, alla quale volevano un gran bene. Ma avere figlie belle, si sa, spesso è una grande fatica. Un giorno il re Babaluk, sovrano di Babalucchia, mandò i suoi ambasciatori per chiedere in sposa la principessa Lucilla. Re Eugenio e la regina Filippa, che non volevano separarsi dalla figliola, risposero di no, perché la principessa Lucilla era ancora una bambina. Re Babaluk non la prese bene, ovviamente. Un anno dopo fu il sovrano di Babbasonia, di nome Baballotto, a presentarsi alla corte di Pabilonka per chiedere la mano della principessa Lucilla. Il re e la regina rifiutarono per lo stesso motivo mostrato al re di Babalucchia. Anche re Baballotto non la prese bene, ovviamente. Al che il re di Babbasonia e quello di Babalucchia si allearono per vendicarsi del grave affronto ricevuto dai sovrani di Pabilonka. Re Babaluk e re Baballotto si recarono nella fucina del potente mago Ogam e dissero: «Potente mago Ogam, noi ti ordiniamo di aiutarci. Devi farci un incanto malefico per la principessa Lucilla, figlia dei sovrani di Pabilonka». E il mago Ogam rispose: «Miei cari sovrani di Babalucchia e Babbasonia, è il mio mestiere far malefici. Tornate fra un mese e li avrete». Trascorse un mese e quando re Babaluk e re Baballotto si recarono nella fucina del mago Ogam, questi mostrò loro un anello. «Ecco qua, miei sovrani, regalate alla principessa Lucilla questo anello di madreperla. Esso è tanto bello quanto malefico, assai. La bella principessa dovrà portarlo al dito per almeno un giorno. Dopodiché sentirete in tutto il regno quali saranno stati i suoi effetti». Re Babballotto e re Babaluk però non potevano regalarlo di persona alla principessa Lucilla, perché s'erano già mostrati assai offesi con i sovrani di Pabilonka, ai quali avevano persino minacciato di fare guerra. Dunque, come fare? «Venga, ci penserò io. Vamos!» disse il re di Babalucchia. Il giorno dopo, re Baballotto si travestì da venditore di gioielli e aprì bottega proprio di fronte al palazzo reale di Babilonca. Quando la regina Filippa seppe della bottega di gioielli aperta proprio di fronte al suo palazzo reale, volle subito comprare dei preziosi. Chiamò le guardie e ordinò loro di chiamare il gioielliere a corte. Il finto gioielliere andò, portando con sé, oltre ai gioielli, un piccolo scrigno di ginepro rivestito di velluto blu. Dopo che ebbe comprato parecchie cose, la regina domandò alla figliola: «E tu, mia dolce principessa Lucilla, non desideri nulla?» «Oh, vorrei sì, madre mia, ma non vedo per me niente che possa piacermi», rispose la principessa. Il finto gioielliere approfittò del momento e disse: «Oh beh, non sia mai che io lasci a mani spoglie la principessa Lucilla! Ecco, ammirate, principessa, ho il privilegio di tenere in codesto scrigno un anello assai splendido e raro. Venga, proviene dal paese dei cristalli giganti d'Ortegaglia. Sono sicuro che vi piacerà». Il finto gioielliere aprì lo scrigno e mostrò l'anello di madreperla. «Oh, ma che bellezza! Oh, ma che bellezza! Oh, ma che bellezza! Chissà quanto costerà! Ditemi il prezzo, vi prego!» esclamò la principessa Lucilla. «Ma principessa Lucilla, venga, ma che domande! Per voi questo gioiello, non ha alcun prezzo!» rispose il perfido finto gioielliere. «Non sia mai! È giusto compensarvi per il lavoro fatto», intervenne la regina Filippa. «Ah, ma allora vi ringrazio per la generosità e prenderò quel che vorrete donarmi. Via, venga, allò, mia regina!» La regina Filippa diede al finto gioielliere una grande somma di denaro. Subito la principessa si mise l'anello al tenero dito. «Oh, che bellezza! Oh, che bellezza!» Trascorse un giorno esatto, e giunta la notte si sentì la principessa Lucilla urlare di dolore: «Aiutatemi! Sta male! Madre, padre, sto male, io muoio!» A quelle grida disperate, il re e la regina, seguiti dalle dame di corte e dai medici, accorsero con le lanterne in mano nella stanza della principessa. «Figlia mia, principessa Lucilla, che hai? Che ti succede?» «No, non mi toccate! Ho una gran sete, padre mio, madre mia! Guardatemi! Son diventata di canapa!» La povera principessa aveva le carni tutte di canapa, gambe, braccia, mani e l'intero corpo stavano sfilacciando che parevano una stoppia. Il re e la regina si disperarono. Riunirono subito il consiglio della corona insieme a tutti i medici di Babilonca e domandarono che cosa si potesse fare. «Maestà, noi siamo impotenti», risposero tutti. «Non vi rimane altro che fare un bando dove annuncerete a tutto il popolo che chi guarirà la principessa Lucilla avrà l'onore di sposarla». E così fu. I banditori partirono subito per tutto il regno con tamburi e trombette. «Peppere peppè! Badabum, badabam, badabum. Udite, udite, udite. Chi guarirà? La bella principessa Lucilla, figlia del re e della regina di Babilonca, avrà l'onore di sposarla. Badabum, badabam, badabum. Peppere, peppè. Intanto, in una contea, poco lontana, c'era un giovane uomo, figlio d'un ciabattino, che si chiamava Crispillo. Un giorno, vedendo che in casa si moriva di fame, il giovane Crispillo disse al padre: «Babbo mio, qui il lavoro è poco e non basta per due bocche da sfamare. Con il vostro permesso vorrei andare a cercar fortuna per il mondo». «Vai, figlio mio, che la fortuna e il destino siano per te buoni compagni», rispose il padre. Il giorno dopo Crispillo si mise in viaggio. Durante il cammino incontrò due ragazzacci che urlavano e tiravano grosse pietre contro una lumaca in difesa. Stavano per ucciderla quando il giovane Crispillo gridò: «Ehi, monellacci, ma che male vi ha fatto quella povera lumaca? Lasciatela stare!» Vedendo che quei ragazzacci continuavano a divertirsi contro la bestiolina, Crispillo si mise a rincorrerli. I due monelli ebbero paura e scapparono via. Intanto la lumaca s'era riparata in un buco nascosto tra le rocce e non si vide più. Crispillo riprese il suo cammino e dopo un po' incontrò il banditore della corte di Babilonga, che a suon di tamburi e trombette andava gridando: «Peppere, peppè, patabum, patabam, patabum. Udite, udite, udite. Chi guarirà la bella principessa Lucilla, figlia del re e della regina di Babilonga, avrà l'onore di sposarla. Patabum, patabam, patabum. Peppere, peppè». Il giovane Crispillo chiese al banditore: «Scusate, signor banditore, che male ha la principessa Lucilla?» «È caduta in un maleficio, è diventata di canapa ed è tutta sfilacciata come una stoppia». Ma Crispillo era figlio di un povero ciabattino e non avrebbe mai saputo come salvare la principessa Lucilla. Cosicché salutò il banditore e continuò per la sua strada. Cammina e cammina finché giunse nel mezzo di un bosco, dove fu sorpreso dal buio. Crispillo si guardò intorno per trovare un posto dove riposare. Vide una grande quercia e si sdraiò sotto i suoi rami. S'era appena sdraiato quando d'improvviso vide al suo fianco una bella signora, circondata da tanti piccoli ometti che parevano folletti. Crispillo si spaventò e la bella signora gli sorrise. «Giovane Crispillo, io sono qui per ringraziarti. Tu mi hai salvata da quei ragazzacci che mi tiravano pietre. Ricordi?» «Perdonatemi, bella signora, ma non capisco. Quei ragazzacci tiravano pietre a una povera lumaca». «Devi sapere, mio giovane Crispillo, che io di giorno sono una lumaca e di notte sono una fata. Qui tutti mi conoscono come la fata Sizzigorra. Ora esprimi un desiderio e io lo esaudirò». «Signora fata Sizzigorra, la principessa Lucilla del regno di Babilonca è caduta sotto un maleficio. Chi la guarirà sarà il suo nuovo sposo. Mi basterebbe conoscere il giusto rimedio per guarirla». «Oh, so bene di quel maleficio. Lo ha forgiato il mago Ogam, uno stregone potente. ti aiuterò io. La fata Sizzigorra si alzò e volse lo sguardo alla corteccia dell'albero di quercia, vi soffiò e s'aprì una fessura da dove estrasse una spada a doppia lama. «Ecco, prendi questa spada», disse la fata, «e vai per quel sentiero di ciottoli bianchi. Camminerai finché quei ciottoli bianchi saranno diventati pietre di carbone. Ti troverai davanti alla capanna del mago Ogam e strappa tre fili di paglia dalla porta. Il resto si farà da sé. Se avrai ancora bisogno di me, sai dove trovarmi». Il giovane Crispillo ringraziò la fata Sizzigorra e si mise in cammino lungo il sentiero di ciottoli bianchi. Quando quei ciottoli diventarono di carbone, il giovane Crispillo trovò la capanna del mago Ogam, si avvicinò alla porta e strappò tre fili di paglia. «Ehi tu, giovane imprudente, perché strappi quei fili di paglia dalla mia porta?» domandò infuriato il mago Ogam da dentro la capanna. «Mago Ogam, se tu sei davvero così potente, devi batterti con me», gridò il coraggioso Crispillo. Il mago Ogam venne subito fuori dalla capanna ben armato, ma appena vide che la mano del giovane Crispillo impugnava la spada a doppia lama, la riconobbe subito e si buttò in ginocchio, implorando: «Oh, povero me, povero me, è finita! Oh, giovane uomo coraggioso, ti scongiuro, risparmia la mia vita! Sciogli il maleficio che hai forgiato contro la principessa Lucilla, e io risparmierò la tua vita», disse il giovane Crispillo. Il mago Ogam levò subito dalla tasca della giacca un anello d'ambra e disse: «Prendi questo anello e corri dalla principessa, infilalo nel suo alluce del piede sinistro. Vedrai che il mio maleficio sarà annientato». Crispillo, pieno di gioia, si presentò al re Eugenio e tutta la sua corte. «Maestà, io sono Crispillo e sono qui per guarire la principessa Lucilla». Subito chiamarono la principessa Lucilla. Ma appena Crispillo le infilò l'anello all'alluce del piede sinistro, una fiamma dello stesso colore dell'ambra si sprigionò con furia dall'anello e avvolse la principessa Lucilla. Ci fu un grido atroce, poi altre urla. Il re ordinò di arrestare quel Crispillo assassino, ma nel disordine del panico il giovane Crispillo riuscì a fuggire. Corse, corse come un disperato il giovane Crispillo e non si fermò finché non giunse sotto la grande quercia dove gli era apparsa la fata Sizzigorra. «Oh, fata Sizzigorra! Oh, fata Sizzigorra! Fatina mia, dove sei?» chiamò disperato il giovane Crispillo. E la fata Sizzigorra apparve. «Eccomi, Crispillo. Ho saputo quel che ha combinato il mago Ogam. Non disperarti». La fata ordinò ai suoi folletti di scavare una fossa di sotto alla quercia. Appena ebbero scavato, estrassero una catena e un pugnale e li misero nelle mani del giovane. «Valoroso Crispillo, quel pugnale e quella catena sono per te. Ora ritorna dal mago Ogam e vedrai che questa volta non ti ingannerà», disse la fata Sizzigorra. Crispillo corse di nuovo alla capanna del mago Ogam, strappò dalla porta 3 pagliuzze e il mago apparve. «Ehi, tu, giovane imprudente! Che casa viene a fare ancora qui, qui?» Ma appena il mago Ogam vide il pugnale e la catena in mano a Crispillo, si buttò in ginocchio e implorò. «Oh, giovane coraggioso, ti scongiuro, sì, risparmia la mia vita!» Crispillo piantò il pugnale in terra e vi incatenò mago Ogam. «Mago ingannatore e cattivo, ora te ne starai qui in catene finché il maleficio non sarà dissolto!» «Giovane Crispillo, il tuo coraggio è più forte del mio potere! Torna dalla principessa! Levale dal dito l'anello d'ambra e l'incanto finirà!» Il giovane Crispillo, però, non poteva presentarsi al re dopo quello che aveva fatto. Ma egli, che amava tanto la principessa Lucilla, non conobbe pericoli. Si fece coraggio e, a costo della vita, si presentò al palazzo del re Eugenio. Appena le guardie riconobbero Crispillo, lo incatenarono e lo condussero davanti al re. Durante la lettura della sua condanna a morte, il giovane Crispillo si guardò intorno e, non vedendo la principessa Lucilla, pensò che dovesse essere morta tra le fiamme. Ma mentre il giovane Crispillo veniva trascinato verso il patibolo, una lumaca, spuntata da dove non si sa, salì di nascosto sul vestito della regina Filippa, strisciò sui merletti e ricami, finché arrivò vicina alle orecchie della sovrana, alla quale bisbigliò qualcosa. «Fermatevi!» gridò subito la regina Filippa, un attimo prima che il boia calasse la mannaia sul collo del giovane Crispillo. «Che avete, mia dolce sposa? Che vi succede? Perché avete fermato il boia?» domandò stupito il re. La regina si alzò dal trono e si rivolse al condannato. «Giovane Crispillo, prima di affrontare il patibolo e incamminarvi verso il lungo sonno, non volete dire nulla in vostra difesa? M'è giunta voce di un inganno ordito contro tutti noi ad opera del potente mago Ogam.» Tutti meravigliarono a quella notizia, coprendosi la bocca con le mani. Crispillo sospirò e con voce tremolante disse: «Maestà, quella voce dice il vero. La colpa non fu mia. Il potente mago Ogam mi ha ingannato e io ho ingannato tutti voi, senza saperlo. Lucilla, la principessa Lucilla, ha pagato con la morte ed è andata incontro al lungo sonno. È dunque giusto che anch'io segua la sua stessa sorte. A che scopo vivere ancora? So che ci ritroveremo di là, nei campi Elisi. Tutto è concluso e niente oramai può restituire la vita alla principessa Lucilla.» «Non tutto è perduto, giovane Crispillo», disse la regina con un sorriso. «Guardie, liberate il giovane Crispillo e conducete qui la nostra figliola.» Subito i valletti portarono nella sala del trono una lettiga sulla quale stava supina la principessa Lucilla. Un grido di stupore si levò in tutta la sala. Lucilla appariva magra e pallida, ma era fortunatamente ancora in vita. Com'era possibile? Crispillo stesso l'aveva vista avvolta dalle fiamme. Ma appena vide l'anello d'ambra, infilato all'alluce del piede sinistro della sua amata Lucilla, gridò: «Maestà, presto! Levate dal dito della principessa quell'anello!» «Non possiamo togliere noi l'anello», disse la regina Filippa. «Sarebbe necessario un contro incantesimo, che però nessuno di noi conosce, tranne forse...» In quell'istante, dal fondo della sala, si sentì un vento leggero che sospingeva una schiera di cavalli alati che tiravano un crocchio sul quale stava seduta la fata Sizzigorra. Appena la fata giunse accanto alla lettiga della principessa Lucilla, scese dalla carrozza e quando fu vicina al capezzale della principessa le sussurrò: «Come vento d'incanto di tanto fuoco scioglie il dolore che brucia non poco, anello d'ambra di mago ingannatore scivola immantinente e sì liberatore». Ed ecco che l'anello d'ambra scivolò via. La principessa Lucilla aprì gli occhi e il suo corpo riprese a vivere. Sorrise la principessa scendendo dalla lettiga con leggiadria. Il re Eugenio fece un cenno al boia e subito al giovane Crispillo furono tolti i ceppi. Appena libero dalle catene, egli andò incontro alla sua amata Lucilla, si inginocchiò e chiese la sua mano. Con le lacrime agli occhi, la principessa Lucilla acconsentì. Il re e la regina di Pabilonca accolsero con gioia il loro nuovo genero, Crispillo. Ma prima che si celebrasse il matrimonio dei due giovani, venne chiamato a Palazzo Reale il padre di Crispillo, e dato che egli era un bravo ciabattino, a corte non ci fu più nessuno che portasse scarpe rotte. Avete ascoltato Parole di Storie. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net